Questa sera abbiamo concordato con Elisabetta e Nicoletta di fare una presentazione incrociata del libro al quale hanno collaborato loro e del libro che è stato curato e prodotto dalla Calusca, Lo spillover del profitto. Poi, in corso d'opera, si è deciso di dedicare la maggior parte del tempo ad affrontare i temi e le questioni poste dal loro libro, visto che sono di passaggio, e che ci saranno altre due iniziative su questi temi i due prossimi mercoledì. E nella terza di queste presentazioni si parlerà invece ampiamente dello spirale del profitto. L'altra presentazione prevista per mercoledì prossimo è quella del libro curato da Sandro Moiso e Jack Orlando, uscito per il Galeone, che raccoglie i testi più importanti usciti in questi mesi su Carmillo Online. Quindi io dirò alcune cose, non farò una vera e propria presentazione del loro libro, piuttosto esporrò certi punti tra quelli che mi hanno colpito di più. E poi il resto sarà affidato a loro e all'interazione con i presenti. Degli accenni al libro fatto da Calusca li rifaremo, e incomincio proprio con uno di questi accenni, perché Crisis, nella quarta di copertina, enuncia il quadro generale in cui viene iscritta la questione pandemia, emergenza sanitaria, coronavirus, e cioè crisi ambientale, crisi economica e crisi sociale. Si può parlare dunque anche di crisi del capitalismo? Ecco, a questa domanda il libro curato da Calusca risponde positivamente. Quindi vi leggo due passaggi brevi in cui Bourrinet, che è l'autore del testo più corposo nel libro, affronta la questione della crisi economica, che non equivale e coincide precisamente con la crisi del capitalismo, però, data la sua entità, insomma, qualcosa ci dice. E quindi vi leggo due brevi passi. Allora, secondo le prime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, il PIL degli Stati Uniti si contrarrà del 6% nel primo trimestre e di circa il 30% nei due trimestri successivi. Questa previsione è stata poi confermata dai dati appunto del trimestre scorso negli Stati Uniti, che hanno visto una caduta addirittura del 32,7%. Per l'anno 2020 si prevede una crescita negativa del 10% per gli Stati Uniti e del 18% per la zona euro. Provenendo dal Fondo Monetario Internazionale, espressione del capitale americano, queste due cifre potrebbero forse essere invertite. In ogni caso, nessun istituto di previsione si arrisca a prevedere la forma della curva economica, che non sarà né una V, caduta seguita da un rimbalzo, né a U, riflusso prolungato prima del rimbalzo, e neppure a L, caduta poi lunga stagnazione. Potrebbe anche essere a I, come la caduta verticale di una pietra. E Bourrinet conclude il suo testo con queste considerazioni. La palla è ora nella metà campo del proletariato. Sta a lui raccogliere il guanto che la borghesia gli ha lanciato con impudenza. Il 2020 sarà l'anno della seconda e ultima grande crisi del capitalismo, dopo quella del 1929, che annuncerà un ottobre 1917 a livello mondiale. Ecco. Questi due libri che hanno in comune l'essere scritti a più mani e uno sforzo di prendere di petto una serie di questioni muovendo da un'ottica e da una serie di esperienze interne al movimento, possono secondo me dialogare positivamente, pur essendo scritti da angolazioni anche anche diverse. Ecco, io parto da, giusto da questa angolazione, in particolar modo del testo di Elisabetta e Nicoletta. Nicoletta, che ha scritto la prima parte, a un certo punto parla di, muovendo da un punto di vista, da un'esperienza femminista e materialista, di uno sguardo bifocale, immagine che mi pare molto significativa, e cioè uno sguardo che permette di cogliere sia la singolarità che la globalità, l'insieme e il dettaglio. Come Benjamin diceva, è nel dettaglio che abita il buon Dio, e Wallerstein afferma che è soltanto a livello globale che si può cogliere la dinamica del capitalismo. Ecco, questa immagine dello sguardo bifocale, anche se io avrei usato l'espressione progressiva, le lenti progressive, perché le lenti bifocali possono provocare un po' di mal di testa. Invece, una citazione lo so, certo, però forse ai tempi non c'erano ancora le lenti progressive, però è meglio usare le lenti progressive che le bifocali, però il concetto è forte. E questa copresenza e questo imbricarsi appunto del punto di vista che coglie il particolare con quello che coglie il generale è quanto ci serve, perché noi apparteniamo a un movimento che è mondiale, nel quale le individualità e le singolarità troveranno finalmente modo di esprimersi e di assurgere al posto che spetta loro, come spetta nella vita di ogni individuo. Un altro particolare che mi ha colpito è che nelle epigrafi compare due volte su quattro il nome di Belux. Quindi da una parte il pensiero di quando fu arrestato Mattia con gli altri di Chiomonte, perché in battuta si produsse un librettino che in buona parte era un commentario, una lunga citazione ai testi di Belux sul margine, con le illustrazioni di Eric Drucker, fatto in un giorno, tirato insieme in una notte e poi subito sparato fuori. Dall'altra il fatto che dei giovani, giovanissimi compagni di Napoli, che hanno da poco messo in attività una nuova libreria, la libreria da Tamu, come primo testo proporranno una riproposizione del libro a suo tempo apparso per Feltrinelli, che mancava da diversi anni. Non è l'integrale, è una parte del libro con una lunga intervista a Belux, insomma, quindi un pezzo di un'esperienza condotta e vissuta insieme a tanti altri compagni e compagne, impegnativa però bella, forte, e un riattualizzarsi di queste questioni. Poi la questione dello sguardo, dello stare sui margini, per come la pone Belux, è centrale nel testo di Nicoletta, e poi avrà modo magari lei di approfondirlo sicuramente meglio di come potrei fare io. Non c'entra niente la dimensione della marginalità, è un punto di vista, è un collocarsi fuori dallo sguardo dominante, fondarsi sulle pratiche di condivisione e di resistenza di chi non sta in centro, per dirla Marinetto molto. Marinetto direbbe a chi voltava il culo al centro. A chi voltava il culo al centro. E altri autori, altre espressioni della critica radicale dicono, secondo me, cose simili. L'abbandonare, la necessità di abbandonare questo mondo, non fisicamente, ma dentro di sé, dentro la propria testa, dentro la propria vita, per addivenire a una alterità forte insieme a questa centralità dello stare ai margini, centralità teorica e di iniziativa, c'è un'altra categoria che deriva da Vandana Shiva, quello del male development, un gioco di parola tra il mal sviluppo, il cattivo sviluppo e lo sviluppo al maschile. Ecco, a me è venuto in mente un altro gioco di parole proposto da Freddy Perman, Against History, Against Leviathan, contro la sua al maschile storia, contro il Leviatano. Sono due percorsi teorici che possono dialettizzare positivamente su tanti piani, anche su quello della scrittura. Quello di Freddy Perman è uno dei pochissimi, forse l'unico, almeno a mia conoscenza, saggio di teoria politica rivoluzionaria scritto poeticamente. Una scrittura storico-analitica, ma che rifugge dagli stilemi del discorso, non solo accademico, ma proprio saggistico. È un libro di poesie. Questa questione del cattivo, del mal sviluppo e dello sviluppo segnato al maschile, quindi nell'emarginazione di tutti i saperi, le pratiche e altre, che ha una portata assolutamente fondamentale oggi, in realtà è un analizzatore molto importante per leggere l'intero corso del capitale e uscire da quella impostazione che evidentemente ha dimostrato tutta la sua debolezza, che vede lo sviluppo delle forze produttive, una fase progressiva che poi diventa una fase no. L'esempio coloniale dimostra che da subito il capitale è distruzione di vita, di culture, di partecipazione, questo agli estremi del mondo, come nel suo centro stesso, per affermarsi deve distruggere la vita per come gli uomini e le donne l'avevano costruita, deve azzerare i risultati positivi ottenuti dai poveri nei secoli precedenti. Tra l'altro, buona parte di questi risultati furono proprio a seguito, nel basso medioevo, dell'epidemia di peste nera. Cioè le grandi lotte che attraversano tutta Europa, sia in Italia che in Francia, che in Inghilterra, che hanno vari nomi, in Italia i Ciompi, in Inghilterra tutto il movimento legato alla predicazione di Wycliffe, pongono a partire da un rafforzamento del peso dei lavoratori poveri sul mercato del lavoro, sostanzialmente le condizioni di un miglioramento sensibile della vita che il capitale, le classi, il capitale in formazione, le classi elevate dovranno distruggere. Dovranno impoverire i contadini e quello che allora era chiamato il poveromo comune per poter mettere in moto la macchina dell'accumulazione capitalista. Ecco, questa questione di un modo di vita fortemente segnato in senso comunitario, partecipativo, di innovazione, perché la vera innovazione che sostengano i cultori della tecnoscienza contemporanea la realizzavano gli uomini e le donne comuni, il miglioramento delle culture, il miglioramento delle tecniche prima di entrare nell'accademia, ebbe tutto un lungo corso di socializzazione effettiva nella fuoriuscita dai quadri della società medievale. C'era tanto nuovo di cui poi il capitale dovette sbarazzarsi per poter affermare la sua visione, la sua pratica e quella che poi diventerà la tecnomacchina di cui oggi misuriamo gli effetti mortiferi a scala planetaria, ma che già allora si potevano individuare, e già allora ci furono uomini e donne che combatterono contro questo modo di vita imposto per le sue nocività e il suo carattere fondamentalmente antiumano. Ecco, il portato attuale della questione, Nicoletta pone al centro, è quello delle pratiche di resistenza e autodifesa, le esperienze di autoaiuto, di condivisione dell'emergenza, delle necessità della vita in una situazione grave, che sono state, questo mi piace dirlo, al centro dell'attenzione sia delle cose fatte con l'host, sia anche del libro curato dalla Calutti, in particolar modo a partire da una lunga registrazione che poi è diventata un testo scritto, che è sta a Massimo De Angelis e da altri lavori di Peter Lindbergh. Ecco, chiudo su questa parte richiamando un'altra cosa che mi è piaciuta molto, e cioè il riferimento, oltre che a Parinetto e tutta la questione, il riferimento a Paracelso, grande medico, grande militante oppositivo del suo tempo, ma sostanzialmente l'inventore della medicina del lavoro. Lui per primo si occupò della condizione di salute dei minatori, dei tintori, però in una prospettiva che poi sarebbe stata destinata a essere abbandonata dalla medicina, salvo poi essere ripresa e riscoperta nei momenti alti del conflitto, come il Maccaccaro dei tempi. E quindi quest'idea dell'autorisanamento del mondo, che è quanto ci serve oggi per non consegnarci mani e piedi legati ai saperi ufficiali che stanno dimostrando quanto poco valgono. Ecco, queste sono le prime cose che volevo dire come sollecitare, ripeto, non è un'esposizione, un'introduzione, sono quei punti che mi hanno colpito di più. Nel pezzo dell'Elisabetta è altrettanto, sostanzialmente per quello che ho capito, si tratta in buona parte dei temi che abbiamo già avuto modo di discutere qualche tempo fa intorno al testo prodotto dalla Coordinamento Lesbiche Femminista di Roma, Quattro passi, note sul femminismo nella fase neoliberista del capitale, alla luce della situazione attuale. Quindi se volete ve ne leggo un pezzettino, ma molto meglio può fare lei. Ecco, io però a lei vorrei chiedere una cosa, sostanzialmente questa presa molto molto estesa e forte che attraversa larghi strati della società e le vite di tantissimi uomini, donne, dell'ideologia neoliberista col suo portato patriarcale di isolamento, di separazione, di illusione, sostanzialmente un'illusione ripiegata su se stessa. Come si può leggere oggi questa presa, e non la questione, perché la questione c'è, è centrale, ma alla luce di 102 giorni di scontri e proteste notturne in un numero elevato di città americane? Cioè il ragionamento è: questa presa è quello che abbiamo di fronte come destino gramo, oppure stiamo assistendo ai primi segni forti però di sgretolamento di questa presa? L'ideologia, ci sono vari studi, resta lì bella intangibile, rispettata nei circoli accademici, negli economisti. Sono usciti almeno tre libri che affrontano la domanda perché dopo 10 anni di crisi economica queste idee, che chiaramente sono delle cazzate, hanno ancora così corso negli ambienti. Quindi quello c'è e rimane, ma la presa sulla gente, nonostante una situazione grave, nonostante il fatto che in questa situazione ovviamente gli stati, i vari operatori istituzionali, le varie confraternite hanno giocato e sperimentato carte per un nuovo livello del controllo, ma sia negli Stati Uniti ma anche in Francia. Il giugno è stato il mese della fuoriuscita della questione delle minoranze razzializzate dall'ambito della riflessione critica per andare sulle piazze, sia rispetto alla questione del controllo poliziesco, sia rispetto a un'infinità di altri temi, manifestazioni oceaniche che segnano proprio un punto di passaggio della questione della linea del colore in Francia e, vabbè, a parte l'Italia, dove appunto ancora impera la maledizione di Tutankhamen, quindi non succede niente, però ci sono stati degli scioperi di fabbrica che hanno costretto il governo a cambiare politica nel giro di 3 giorni rispetto alla chiusura delle fabbriche. Poi ripeto, la situazione quando passa qualcuno ci porta le condoglianze sentite per come si è messi male, però in giro per il mondo insomma se ne vedono parecchie. E nel cuore dell'impero sono 102 giorni, non si è mai visto una cosa del genere nell'intera storia degli Stati Uniti. Poi con modi diversi, però questi modi diversi sono già la questione, nel senso che non si tratta evidentemente solo della questione razziale, non si tratta solamente della questione delle pratiche di polizia, ma sta entrando in gioco un po' tutto. E c'è un pezzo sul Corriere di oggi che insomma fa una certa impressione. Il pezzo, se avete avuto modo di leggerlo da un'altra lettera, è sul fatto che negli Stati Uniti ormai ci sono milizie armate da una parte e dall'altra. Lauren Goller, venendo qui all'incirca 2 anni fa, disse: negli Stati Uniti si sta andando incontro alla guerra civile. E questi sono i primi segni di questo punto di domanda. Poi ovviamente ci sono tantissime altre cose, e io vorrei che prendeste la parola a voi, poi magari se avete ancora un po' di pazienza vi espongo altri punti che mi hanno colpito negli altri testi presenti nel libro. Basta. Grazie Nick, soprattutto grazie a tutte e a tutti di essere venuti qua, perché parlare è estremamente importante. Grazie alla Calusca, grazie a Conchetta, e volevo proprio cominciare, proprio perché parlare è importante, con una frase a proposito di Bell Hooks, che è stata nominata già in apertura, con una frase che Nicoletta ha scelto per introdurre il nostro articolo doppio, diciamo così. Bell Hooks dice: importante non è soltanto ciò di cui parliamo, ma anche come e perché decidiamo di parlare. Quindi è questo il problema che noi ci siamo poste, cioè non soltanto fare dei bei testi, fare delle belle analisi, sviscerare la situazione come si deve, ma noi siamo qui perché riteniamo importantissimo parlare di questa cosa adesso e sviscerare quello che possiamo fare, quello che si può fare insieme, gli obiettivi che ci possiamo dare. Noi non abbiamo la palla di cristallo, però insieme dobbiamo necessariamente discutere di questa cosa. Allora, io ho un punto di vista, diciamo, sposto un attimo il punto di vista rispetto a quello che ha detto Nick, rispetto a quello che ha detto Roberto, non per parlare di altre cose, è sempre in sintonia, però lo vorrei spostare su l'analisi, partendo dall'analisi della situazione generale, per capire come siamo arrivati qui e perché c'è stata una risposta a un problema che è sorto, una risposta di acquiescenza e di assoggettamento a tutti i livelli di questo tipo. Allora, è chiaro che il neoliberismo è la fase del capitale in cui stiamo ed è un'ideologia a tutto campo. È una lotta che è sorta all'interno della classe borghese, ha vinto l'iperborghesia, la borghesia transnazionale, quella delle multinazionali, ha affossato le borghesie nazionali, quelle imprenditoriali, tanto per darvi una definizione spicciola, ha lanciato la finanziarizzazione dell'economia e ha espulso dalla classe borghese strati sociali che sono appartenuti per tanto tempo, tipo la piccola e media borghesia è stata proletarizzata. Questa situazione, che risponde a una determinazione precisa di cambiamento epocale che noi abbiamo attraversato quasi senza accorgercene, perché è stata fatta attraverso piccoli passi che paradossalmente sembravano slegati tra di loro e invece no, aveva un unico obiettivo, quello della trasformazione del mondo del lavoro prima e del sociale poi. Che cosa ha comportato? Ha comportato che il mondo e la società in cui noi stiamo viene misurata e costruita attraverso degli aspetti particolari, cioè il neoliberismo si muove con delle caratteristiche sue. È chiaro che è sempre capitale, è chiaro che è basato sul profitto, è chiaro che è lo sfruttamento del nostro mondo e dell'impoverimento totale dei mondi che è possibile sfruttare, questo è il capitalismo. Però il neoliberismo si muove con delle caratteristiche particolari, con degli strumenti, si è dotato di strumenti particolari. Allora, prima di tutto ha usato tutto l'armamentario degli strumenti della sinistra attraverso la socialdemocrazia, e quindi la socialdemocrazia riformista ha usato gli strumenti di sinistra per farci passare tutta una serie di cose che altrimenti non sarebbero passate mai. E questa è una modalità che proprio appartiene a questo periodo. Però ci sono dei meccanismi che lei ha messo in atto, per cui, allora, il meccanismo della delega, la spinta alla delega, il meccanismo della colpevolizzazione, il meccanismo della strumentalizzazione di tutte le istanze collettive, quindi la violenza sulle donne, i diritti umani, il razzismo, tanto da costruire quella che come coordinamento noi abbiamo sempre chiamato una società dell'antirazzismo razzista, dell'antisessismo sessista e dell'antifascismo fascista. Cioè usa continuamente questi strumenti per addomesticare tutte quelle istanze che nascono e vengono poste e per usarle, tritarle e disputarle a suo uso e consumo. Noi queste cose ce le dobbiamo sempre ricordare, perché altrimenti non capiamo come si muove e come ottiene tutta una serie di cose. Per esempio la militarizzazione dei territori sfruttando la violenza sulle donne, sfruttando il terrorismo, il cosiddetto terrorismo, sfrutta le guerre umanitarie, sfruttando sempre i diritti umani, la violenza sulle donne, le minoranze, no? Cioè è proprio una caratteristica del capitalismo neoliberista. Perché questo è importante? Perché in questo modo il neoliberismo ha affossato qualsiasi altro riferimento politico, sociale, perfino religioso, cioè qualsiasi tipo di ideologia è stata azzerata, è stata massacrata, è stata mistificata, è stata demonizzata in funzione della libertà dell'individuo, una libertà che per il neoliberismo consiste nel poter realizzare se stesso. L'individuo dovrebbe realizzarsi individualmente, autoreferenzialmente, nel mercato, nella lotta e nella sopraffazione di tutti gli altri che gli stanno vicini, perché è cominciata sul lavoro questa storia, nel senso che io devo dimostrare di essere più bravo del collega, io devo essere disposta anche a pugnalarlo e compagnia bella. Questo è diventato poi metabolismo sociale, la gerarchia, la meritocrazia. Questo strumento qui che cosa ha comportato? Che la gente si è ritrovata sola, cioè le persone in questa presunta e mistificata sensazione di libertà, di onnipotenza e di poter decidere per se stessi, non avendo nessun riferimento poi di nessun tipo al di fuori della costruzione di sé, in una società che poi non permette la costruzione di sé, perché il capitalismo permette soltanto quello che decide lui e come decide lui e nella società di mercato. Si è trovata completamente scombinata, è abbandonata, è lasciata a se stessa in una inutile rincorsa della realizzazione che è utopica e non c'è, e in una continua delusione rispetto a obiettivi che vengono posti come raggiungibili e mai possibilmente raggiunti. Questo perché lo dico? Perché questo è importante per capire l'adesione che c'è stata in una situazione di emergenza come questa, l'adesione che c'è stata a critica e totale a tutta una serie di norme repressive, vincolanti, totalizzanti. Perché? Perché nel momento in cui la persona è sola, non c'è nessun tipo di riferimento ideologico, gli è stata tolta la terra sotto i piedi dicendo che l'unica realizzazione è quella individuale. Chi è che viene riconosciuto poi come solo depositario del bene e del giusto? Lo Stato, il potere. Cioè il potere è l'unico che ti può dare le direttive, e a queste direttive tu ti affidi, e allo scientismo che questo potere propone ti affidi, perché è l'unica verità che viene propagandata come tale. Tutte le altre sono state azzerate. Quindi tu, una da sola o uno da solo, è portato ad affidarsi all'unica risposta certa che gli viene data e gli viene offerta. È per questo che, insieme a tutto l'armamentario che è stato costruito intorno al paradigma legalitario, alla necessità della delega, alla infantilizzazione degli individui, è per questo che c'è stata e continua a esserci la risposta di affidamento, che altrimenti in altre situazioni avrebbe portato a una ribellione. Diciamo che paradossalmente le uniche che si riconoscono ancora in un insieme sociale, in uno sfruttamento comune, sono le donne. Cioè, se voi parlate con le donne per la strada o con delle donne qualsiasi, e cominciate a parlare della violenza di genere, anche se in maniera magari superficiale, approssimativa, istintiva, le donne si riconoscono fra donne, si riconoscono in un gruppo. E questo è un fattore importantissimo, perché noi con la nostra esperienza di sfruttamento, di oppressione secolare, con la comprensione delle modalità con cui ci hanno tenute sotto, noi possiamo avere e dare degli strumenti di comprensione del perché siamo qua dentro. Cioè noi il patriarcato ci ha tenuto sempre sotto con la necessità di affidarci a qualcuno, come diceva giustamente Nicoletta prima. È da quando siamo bambine che ci dicono che dobbiamo dar retta al padre, al fratello, e poi al marito, e poi allo Stato. E c'è anche tutta una costruzione del femminismo mainstream che continua a propagandare questo e a diventare strumento di ulteriore addomesticamento, nel momento in cui dice che noi contro la violenza sulle donne dobbiamo affidarci allo Stato, dobbiamo chiedere leggi, dobbiamo spingere ai tribunali, alla legislazione ad hoc. Tutto questo toglie alle donne, cioè sta cercando di togliere alle donne, perché per fortuna le donne invece si riconoscono ancora se si parlano tra loro. Può togliere alle donne la possibilità di organizzarsi in autonomia, perché l'organizzazione in autonomia, il decidere di se stesse, la comprensione, insieme però alla comprensione dei meccanismi per cui noi siamo messi in questa situazione, noi ce l'abbiamo ancora. Mentre la gente, intesa come classi subalterne in senso lato, perché adesso le classi subalterne abbracciano un arco vastissimo che va dal sottoproletariato agli immigrati fino alla piccola e media borghesia, non si riconoscono più, riescono a mettere in campo soltanto la lotta fra poveri. E questo è il risultato che si stiamo ottenuto in maniera estremamente fattiva e concreta. Allora, da questo punto di vista c'è una, diciamo, un'analisi a margine da fare, che è quella che in effetti il neoliberismo si muove come l'oppressione patriarcale, no? Ha messo in atto gli stessi meccanismi, tanto è vero che noi diciamo sempre che ha patriarcalizzato la società. Anzi, noi dicevamo femminilizzato la società. Poi abbiamo avuto un incontro qui alla Calusca con Roberto, e Roberto ci ha detto: ma no, perché femminilizzato è un termine che evoca positività. E io non sarei d'accordo su questo, perché il femminilizzare evoca positività perché evoca tutta una serie di caratteristiche, gentilezza, disponibilità, accudimento, che ci sono state imposte. Quindi io questa femminilizzazione non la leggo positiva, già come termine. Però diciamo allora patriarcalizzazione, così togliamo di mezzo questa ambiguità. Detto questo, il problema, dopo aver capito perché c'è stata questa risposta, come si muove il neoliberismo, e gli strumenti che usa per l'addomesticamento delle classi subalterne e per piegare ai propri desiderata la gente, per avere una risposta, tant'è vero che di fatto questa libertà individuale eccellente, assoluta, dell'uomo nella fase neoliberista del capitale, dell'essere umano nella fase neoliberista del capitale, poi paradossalmente proprio è una scelta, si trasforma in quello che è l'assoggettamento volontario, cioè quei meccanismi che tra le persone danno l'idea di produrre libertà, poi diventano invece addomesticamento volontario, cioè proprio un assoggettamento, una disponibilità all'assoggettamento, perché viene riconosciuto lo Stato come referente. Allora, detto questo, però, appunto, abbiamo capito come funziona, una fa l'analisi di come funziona il neoliberismo, di che cos'è, di come si muove, quali sono le caratteristiche precipue, quelle che mette in atto, però noi quello che ci chiediamo è, quello che ci facciamo è una domanda: come possiamo rispondere a questo? Come possiamo usare questa situazione per smontarla? Come possiamo venire fuori da qui? Perché noi ci dobbiamo prima di tutto fare una domanda, e questa ce la dobbiamo fare un po' tutte e tutti in maniera sincera: ma noi vogliamo veramente uscire da qua? Cioè, noi vogliamo uscire dal capitalismo o vogliamo soltanto degli accomodamenti, ognuna nel suo campo, cioè uno fa la maestra, uno fa il professore, uno lavora nella sanità, un altro lavora non lo so dove, e chiaramente vorrebbe che ci fossero i posti di lavoro, che ci fossero gli stipendi più decenti, che la sanità non facesse schifo, che funzionasse. Però poi vogliamo uscire veramente da qua? È una domanda importante questa, perché se uno chiede a un compagno o una compagna: ti piace il capitalismo? Ti piace? No, perché c'è. È una società che fa schifo, è la società dello sfruttamento, è la società della predazione, è una società terribile, cannibalizzante. Però poi magari sul posto di lavoro sponsorizza la meritocrazia, poi magari in un'altra cosa. Posso azzardare una cosa, poi magari accetta questo tipo di situazione di emergenza e si chiude in casa. È una domanda che noi ci dobbiamo fare, perché se noi vogliamo smontare questo sistema, dobbiamo smontarlo sui meccanismi che lui mette in atto, cioè noi dobbiamo smontare i cardini su cui si poggia questo sistema, e sono la legalità, il paradigma securitario, la delega, la meritocrazia. Noi dobbiamo incentivare, fomentare, portare avanti disobbedienza rispetto a questo sistema, alterità. Noi dobbiamo fare in modo che l'illegalità sia positiva, non la legalità, che la meritocrazia venga boicottata, cioè un esempio pratico, preside padrone nella scuola, preside padrone no, quindi non è un problema di più ore meno ore, più stipendio meno stipendio, il problema è della gerarchia nella scuola. Allora, quando noi ci diciamo chiaramente, noi vogliamo uscire da qui, vogliamo smontare questo sistema, ok, vogliamo, per smontare questo sistema dobbiamo affrontare quelli che sono i meccanismi con cui lui lo tutela, lo mette in atto e l'ha fatto passare. Nel momento in cui noi li individuiamo, dobbiamo cercare di destituirli, e la nostra lotta dovrebbe essere organizzarci in questo senso. Per esempio, c'è tutta la parte devastante del controllo, chiamiamolo così, dalle telecamere al controllo di qualsiasi tipo, anche la carta d'identità, quella con l'impronta digitale, no? Cioè le impronte digitali per farsi dare la carta d'identità. Io non ho la carta d'identità e non ho neanche più il passaporto, non so come farò, ma non le ho date. A un certo punto mi hanno messo sotto sta roba e ho detto che sarebbe, e dice l'impronta digitale, e dico io te le do l'impronta digitale, e dice ma non si può fare, e vabbè resto senza, quindi per ora ho solo la patente, e quindi quando scadrà la patente non lo so, però è una, cioè bisogna essere consapevoli che per esempio il controllo sociale, le sanzioni amministrative, ma bisogna che noi affrontiamo assolutamente i meccanismi con cui ci tengono sotto, e questo vale anche per l'emergenza coronavirus.